abbiamo sull'altro capo della linea Corona per partire con questa intervista. Pronto? Sì, pronto. Buonasera, sono emozionatissimo. Benvenuta, sei in diretta su Blu Radio Veneto. Grazie, buonasera, grazie mille. Bene, allora noi siamo ben contenti di averti ospite qui, sarà l'occasione per fare un excursus su quella che è stata la tua produzione discografica. Sicuramente sei una delle protagoniste della musica dance degli ultimi quasi 20 anni, dobbiamo dire, perché il tempo corre, È vero, il tempo corre, hai detto bene, è verissimo. Ecco, esattamente, tutto iniziò giusto nel 93, giusto? Fine 93 praticamente, ma il The Rhythm è venuto fuori proprio nel 94. Perfetto. Era, mi ricordo, tra i primi mesi del 94, io mi ricordo era uscito questo vinile con il quale insomma è stato il primo successo e poi una lunga sequela di pezzi, giusto? Sì, sì, grazie a Dio, sì, grazie al pubblico, a voi DJ che avete suonato tantissimo, quindi praticamente è stato un matrimonio felice, ecco. Ecco. Se la memoria non mi inganna, era la primavera, usciva dopo Baby Baby, Try Me Out, I Don't Wanna Be a Star, sì, 95, molto prolifico. Sì, sì, esatto, è andato molto bene. Sì, principalmente a Londra, Try Me Out è stato molto forte come pezzo, sì. Ecco, mercato inglese dove dobbiamo dire si è spopolato sin da subito, giusto? Sì, ho avuto questa fortuna, è piaciuto subito a cominciare a partire da The Rhythm. E praticamente sono stati gli inglesi a cominciare questa lunga traiettoria, perché loro hanno sentito e è piaciuto, e poi subito mi hanno chiamata, mi hanno detto che piaceva il pezzo lì, e quindi anche quando è uscito poi Baby Baby, Try Me Out, Don't Wanna Be a Star, loro hanno sempre suonato tutti i pezzi, insomma è stato un rapporto molto bello anche con l'Inghilterra, che è un mercato che, lo sai, molto difficile. Molto difficile, sì. Sì. Ecco, piacciono molto le sonorità ho ricercate, comunque diciamo che hai spopolato anche lì, ecco. Ma praticamente era perché la dance era una novità, in senso stavamo da quel periodo che si chiamava i Martelloni, famosi Martelloni. Sì. È vero che sei arrivata, quindi, persino in Giappone, giusto? Sì, sì, persino in Giappone, sì, è perché era proprio un momento giusto, la gente aveva voglia di un po' di cambiamento, volevano sentire un po' di musica, cantare più che altro, no? La melodia, perché The Rhythm è venuto con la melodia e è andata molto bene a quel periodo lì, era giusto, sicuramente era il momento di cambiare, esatto, e The Rhythm ha rappresentato questo cambiamento per la musica dance, Eurodance praticamente fatta, tutta prodotta in Italia. E questa era la novità, questa era la novità, perché la gente subito pensa al mercato inglese, pensa al mercato americano, invece la novità è che è stata tutta prodotta in Italia. In Italia, sicuramente. Esatto. Poi, diciamo, con le tue esibizioni live, poi nelle varie serate, nei vari contest, dobbiamo dire che è veramente spopolato, Grazie a Dio, tuttora continua, fanno tante feste anni 90, sono molto sorpresa del fatto che vedo ragazzi molto giovani, 16 anni fino a 25, quindi una nuova generazione che stanno lì e che ascoltano e che piace questa musica. Io sto facendo una tournée, per esempio, adesso in Francia, sono 40 date. Addirittura. Tutta dance, tutta dance, è una cosa fantastica, veramente. Perfetto. Si chiama Dance Machine, è una specie di festival bar che gira per tutta la Francia. Guarda, è la mia musica, perché io ne ho 36, per cui puoi immaginare che l'ha vissuta direttamente. Allora ti ho cresciuto un poco. Esatto. Esatto, allora io direi, visto che prima abbiamo iniziato con The Rhythm of the Night, giusto per scaldare un po' la temperatura, di fare un piccolo passetto in avanti. Era il 95 quando si ballava Try Me Out, giusto? Ok. E ce l'ascoltiamo, direi. Me out, please baby, try me out. Just take a chance on me, cause I wanna be yours. Try me out, if you just try me out, I'll be the girl for you, honey, let me be yours. Wanna love ya, try me out, please baby, try me out. Just take a chance on me, cause I wanna be yours. Wanna love ya, try me out, if you just try me out, I'll be the girl for you, honey, let me be yours. Try Me Out, grande successo di Corona, anno 1995, ce l'abbiamo super ospite questa sera su Blu Radio Veneto. Pronto? Sì, pronto. Bello sempre riascoltare questo pezzo, eh? Sì, sì, sì. Io lo canto sempre, quindi per me. E non solo tu, eh? Che bello! Ma dimmi una cosa, se posso farti una domanda, approfitto della tua gentilezza. Ascoltami, sì. In quegli anni lì c'era il Festival Bar. Io sì. Mi ricordo si aspettava l'estate per questo fantastico appuntamento che dobbiamo dire qui in Italia dagli anni 60. Fino a quanto? 3 anni fa mi sembra che sia stata l'ultima edizione. Era il protagonista dell'estate. Io effettivamente sento un vuoto da quanto manca il Festival Bar. È vero, è verissimo, è rimasto nei cuori di tutti noi perché era l'annuncio dell'estate praticamente. A maggio cominciava e praticamente la gente sentiva lì tutta la tendenza della musica che si doveva ascoltare per tutta l'estate, quindi era un appuntamento importante, bello, fresco e divertente. Certo, comunque mi ricordo, ecco, erano quelle che poi diventavano le canzoni dell'estate, giusto? Esattamente, era praticamente la colonna sonora dell'estate, che poi la musica che si ascoltava tutta l'estate era quella che preannunciava il Festival Bar, cominciava praticamente a maggio e la gente lì prendeva gli appunti e si cominciava un po' a fare le prove, a cantare, certo. A fischiettare i vari hit. Ecco, poi dobbiamo dire che con questi tuoi singoli ha fatto veramente incetta di dischi di platino, veramente razzia. Sì. È stato molto bello, sì, sempre ringraziando a grandi fans che hanno seguito questa musica e grazie a loro, no, che hanno eletto e che hanno suonato, voi DJ e tutti quanti che hanno partecipato a questa avventura bellissima. Certo, che poi è stata la Warner, giusto, che ti ha lanciato come etichetta a livello, diciamo, europeo. Esatto, esatto. Che se non sbaglio usciva in DDA, vero, come produzione locale? Sì, esatto, esattamente. Non ricordo. Mm. La mitica etichetta blu con la scritta bianca. Lo sai tutto, vedi? Sì, guarda. Quanto li ho trasmessi. Allora, io rimarrei ancora nel 95 perché sicuramente dopo arriviamo anche ai giorni nostri. Il 95 perché è stato un anno veramente in cui i successi sono stati molto numerosi con questo pezzo I Don't Wanna Be a Star, titolo molto curioso, io non voglio essere una star. Esatto, è perché è impegnativo, è molto impegnativo essere una star, quindi io guardavo le grandi star che tuttora sono, no? Tipo all'epoca guardavo Michael Jackson, Madonna e tutte le grandi star, dicevo mamma mia, I Don't Wanna Be a Star. È una sofferenza, è un onere, uscire. Ma sicuramente anche un onore, bisogna dirlo. È molto bello, però c'è un lato positivo e un lato negativo. Io guardavo più quello negativo, che non poter uscire con gli amici, andare in giro e varie certo, cose. Poi avrai apprezzato anche quelli positivi, immagino. certo, i positivi sono tantissimi anche, però io vedendo quello dicevo sempre Madonna Vesta. Ecco, comunque direi di ballare tutti quanti e dare un po' di spazio alla musica, che dici? E ce l'ascoltiamo, perfetto. Okay. Ooh. turn me round and round. Your love is to me a special feeling. All my life was just an up and down, but you, you have changed the whole meaning. Yeah, yeah, yeah. I believe in what you're giving me, 'cause you, now you are the reason. Just about you'll be my destiny, destiny, my destiny. I don't wanna be a star. Star, così si cantava nel 95 Corona, che stiamo intervistando questa sera su Blu Radio Veneto. Dobbiamo dire bella bella questa intervista. E noi proseguiamo in questo excursus degli anni 90. Eccoci qua, pronto? Pronto, eccomi, eccomi. Sì. Perfetto, eccoci, sei sempre. Stavi ballando un poco. Stavi ballando un poco, eh. Eh sì, poi è lunedì oggi, quindi è un po' duretta, lo dico sempre. Sì, sì. Sì, ma poi sono arrivata dalla Francia e sono un po' stanchetta, però va bene, sentire mi fa sempre piacere. Certo, ecco. Com'è lì in Francia? Caldo, molto caldo. Ecco, perfetto, quindi anche non è solo qui che è caldo, No. Perfetto, ecco. Eravamo sempre nel 95, ecco, quella splendida estate per te e per la musica dance quando c'era. Vuoi presentarla tu, Ah, tu parli di Baby Baby? Certo. Benissimo. Aveva questo spopolato questa, praticamente. Baby Baby è il mio pezzo preferito, se vuoi sapere, la scoop. È questo che preferisco io, perché mette, non so, ma c'è, io dico sempre have a power, no? C'è la grinta, c'è forza e mi piace quando inizio a cantare. Mi piaceva molto quel pezzo in cui c'era l'intro. Mamma, esatto. Mamma mia, è bellissimo quell'intro lì, veramente è figo, mi piace da morire. Puoi dirlo, io l'ho vissuto dall'altra parte quando ero in pista o quando la trasmettevo, e ti posso dire che mi dava una carica allucinante. È vero, dà una carica questo pezzo, e è tuttora così per me, è quello che preferisco nell'album, è Baby Baby. Perfetto, allora direi anche in questo caso facciamo parlare la musica, Ok, perfetto. Ladies and gentlemen, Corona, Baby Baby. Bye. Baby, why can't we just stay together? Yeah, yeah, yeah. Baby, baby, why can't we just stay forever? Yeah, yeah, bellissima Baby Baby Baby, eh sì, 95, sempre quest'anno fenomenale, eh? Non c'è che dire. Pronto? Pronto, pronto, ecco. Ti seguivo. Perfetto, ecco. Ce la ricordavamo alla grande questa canzone qui, vero? Sinceramente sì. Questo pezzo è quello che ti dico, che mi dà proprio una carica, mi piace molto, anche vedo che il pubblico quando canto Baby Baby tutti quanti con la mano in su e vai, erano altre sonorità quella epoca lì, eh? Molto belle veramente, anni 90 hanno dato proprio delle sonorità molto belle. Non c'è che dire, eh? Sonorità sicuramente stupende. Ce li ricordiamo tutti, diciamo che in quegli anni lì si ballava la grande, ci si divertiva. Bravissimo, si ballava la grande, bravo. È quello che mi ricordo sempre, io dico, ma si ballava la grande anni 90. Perché, vabbè, parliamo di me adesso, ma c'erano anche tanti altri artisti che facevano completare questa cornice che era fantastica. Sì, c'era poi anche, dobbiamo dire, una produzione abbastanza variegata a livello europeo. Esatto. Sia molte produzioni italiane, ma anche molta, in Germania c'era molto. Quindi sicuramente, ecco, però diciamo di fare un bel salto in avanti, quindi passiamo in avanti di quanto? 11 anni? Mamma mia! Andiamo avanti. C'erano state anche delle collaborazioni per la musica praticamente di Bossa Nova con la 5000 Records, sempre inglese, che ho fatto delle collaborazioni così perché essendo brasiliana mi hanno chiesto di cantare un po' di cose in portoghese. Certo. E è uscito anche in Giappone un pezzo che si chiama Garota Brasileira, poi ho fatto Piove, altri sempre sonorità un po' new bossa, molto diverso di questa sonorità qua. Poi dopo si è arrivato a quest'altro salto che stiamo per parlare adesso. Quindi dal 95 al 2006, mi fai facciamo un bello scherzetto con la macchina del tempo, eh? No, ma non è, per me non era un scherzo con la macchina del tempo, perché io ho seguito questa cosa però cantando, ci sono stati altri progetti, ho fatto dei progetti con Papa Wojtyla per la chiesa, ho cantato anche in chiesa moltissimo, è una cosa un po' meno, non so, popolare, no? Perché la gente praticamente mi vede come la cantante dance e tutto quanto. In questo progetto era una cosa molto diversa, io duettavo con una bambina di 11 anni che si chiama Sara, e poi lei ha partecipato anche al programma di Rai 1 con i bambini, insomma, tutto molto, molto diverso da questo lavoro. Poi c'è stato il progetto con l'Inghilterra, poi quello con Giappone, poi dopo io sempre cerco di non fermarmi, perché sennò crea la ruggine, capito? Certo, ovviamente noi abbiamo dovuto condensare e riassumere, perché bravo. Ecco, quindi balziamo al 2006, visto che l'hai presentata molto bene la scorsa canzone, ti proporrei, se ti va, di presentare anche la prossima. Che dici? Okay, vado. Perfetto. Oh, hi, this is Corona and this is a song called I'll Be Your Lady for you.